Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima. Teletrasporto attivato, eccomi qua, finalmente arrivato sull'astronave Enterprise questa sera. Veramente stavo dando uno sguardo ai programmi televisivi di questo lunedì, vabbè, dai, diciamo, almeno per quanto mi concerne, una palla incredibile proprio. Oramai tutti i programmi per teenager o persone over 70. Insomma, per noi quarantenni, cinquantenni c'è poco e nulla in TV, vabbè. E allora sono sceso giù nella cantina, insomma, nella mia cantina, a mettere su due dischi e ad essere in compagnia con voi su Spreaker Radio, così tanto per divertirci, senza nessuna pretesa di sorta, insomma, così solo per mettere su due dischi e divertirci. In apertura ringrazio tutte le persone, insomma, che mi ascoltano sia in versione diretta proprio questo istante, ma anche in versione podcast, che andrà sul sito di Spreaker giorno e notte. Quindi non potete far altro che sbizzarrirvi nell'ascoltare la trasmissione. Io sono Andrea, vi saluto, buona serata a tutti. Ora facciamo un veloce riepilogo del programma che ascolterete. Il titolo è Star Trek, viaggio nella storia della musica. Questa trasmissione andava in onda nel 1999 su Radio Inchiesta Vigevano, sempre condotta da sottoscritto, e l'ho riproposta quest'anno qua sul web. Trasmissione che, appunto, dal titolo vuole essere un omaggio alla serie classica di Star Trek. Sto parlando appunto della prima serie uscita nel 1968. Io poi le serie seguenti, devo essere sincero, non le ho seguite e non sono fans, anzi è tutt'altro. Io sono proprio fans della prima serie di Star Trek e appunto la mia trasmissione vuole essere un omaggio a questo bellissimo telefilm americano, veramente. Serie classica Star Trek. E oltre a questo, il programma, insomma, ruota principalmente attorno alla musica. Ascolteremo cose, diciamo, vecchie, anni 70, anni 80, anni 90, qualche chicca, qualche colonna sonora di film, e poi ci sono anche dei personaggi assurdi che ci vengono a trovare. Ecco, appena nomini arriva sempre qualcuno. Vabbè, vediamo che si sta teletrasportando verso l'astronave. Monella! Monella! Monella, sei una monella! Ah, sei una monella! Ho capito, vabbè. Avete riconosciuto tutti, era il mitico Beppe Simone che mi dava della monella, forse mi ha confuso con qualche donna, vabbè, no? Sono cose che capitano. Solitamente in apertura di Star Trek mettiamo sempre su un disco di musica house degli anni 2000, e questa canzone la dedichiamo, come di consueto, a un mio carissimo amico della provincia di Piacenza, un mio compagno di avventure discotecare, passatemi il termine, in quegli anni. Quindi questo primo pezzo, molto molto, diciamo così, maranza, lo dedico a te, caro amico. Spero tu sia all'ascolto. Siete all'ascolto di Star Trek, 49 minuti primi dopo le ore 21, sempre ovviamente con Andrea e con la nostra musica. Ciao, bella gioia, Ah, grazie, ok, va bene, mi danno anche delle belle gioie. The Night Before the Murder. Energy Level Lou. Questo dovrebbe essere il titolo corrente. Buona serata, questa è Star Trek. Ciao bella gioia! Sei una monella! Sei una monella! The Night Before the Murder, Energy Level Low. Gran pezzo, disco del 2001. Su questo pezzo mi sembra doveroso ricordare anche le mitiche discoteche, insomma, della mia zona che c'erano in quel periodo. E beh, c'era la discoteca XO di Cappella Cantone Cremona, se ci fosse qualche amico di Cremona in ascolto, qualche amica un saluto. Lo Scacco Matto di Fiorenzuola d'Arda Piacenza. L'Avila di Rivalta di Gazzola, insomma il Caprice sempre di Piacenza, e poi c'era un disco pub meraviglioso, il Mediterraneo di Casal Pusserlengo. Vabbè, alcuni sono ancora aperti, altri purtroppo sono veramente caduti in decadenza, abbandonati. E con questa canzone noi abbiamo ricordato anche quel periodo grandioso del disco, insomma, della musica house, della musica disco house. Bene, bene, spero che la vostra serata prosegua bene. www.andreamangiarotti.com per interagire con la trasmissione. Se accedete a quel sito poi avete tutti i vari link per insomma ascoltarci, o semplicemente per conoscerci meglio tramite i social network, Twitter principalmente, anche Facebook. Benissimo, benissimo, la prima canzone sta per terminare, i contatti ve li ho donati, e ora dopo un brano di musica dance direi di proporre un bel brano di musica italiana, un grande artista che con questa canzone ha, diciamo così, incantato l'Ariston di Sanremo negli anni 80, una canzone stupenda, e lui è un artista decisamente importante. Sto parlando di Enrico Ruggeri, e questa è la sua canzone dal titolo Nuovo Swing. Enrico Ruggeri. Forse il vero amore vuol restare grande, preferisce chiudersi e morire in un colpo invece che appassire, ma non puoi accettarlo se ne sei coinvolto tu, corri fuori a cercarlo oppure non voltarti più. La parola Dio non si concepisce mentre sfila lento quel corteo di esistenze apparentemente lisce. A un telefono suona e tutto ricomincerà. E stavolta sia la volta buona che il presente scivola già. Parte piano il nuovo swing, mentre corri impaziente sul ring, cambia il tempo attorno a te, e la musica vecchia dov'è? Strumentisti, session man, hanno già sviluppato il refrain, la canzone che vuoi tu, ma poco dopo non la riconosci più, non la riconosci più, non la riconosci. Un minuto e poi torna il vecchio inciso e una donna resta qui tra noi. Sento il peso dell'ultimo sorriso, di uno sguardo stremato in una stagione che va, non sarà cancellato, ma suoniamo, poi si vedrà. Alto piano, nuovo swing, mentre corri impaziente sul ring, cambia il tempo attorno a te, e la musica vecchia dov'è? Strumentisti, session man, hanno già sviluppato il refrain, la canzone che vuoi tu, poco dopo non la riconosci più. Brano meraviglioso di Enrico Ruggeri, Nuovo Swing, pezzo portato al Teatro Ariston di Sanremo con indubbio successo. Devo essere sincero, è anche una delle mie canzoni preferite del buon vecchio Ruggeri. Ora noi ci fermiamo pochi secondi per una pausa di spot no profit, ci ritroveremo tra poco qua a Star Trek. La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre.